Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Legno e acciaio sono entrambi materiali ampiamente usati nel settore delle costruzioni, ma in genere, diciamo così, sono l'uno in alternativa all'altro. Negli edifici tradizionali, come si sa, c'è uno scheletro in cemento armato dove è l'acciaio a garantire le principali funzioni strutturali, mentre negli edifici in legno in genere questa stessa funzione viene affidata a delle travi in legno lamellare di solito, che permettono di realizzare strutture più leggere, più elastiche, ma con dei limiti strutturali che per esempio riguardano le dimensioni degli edifici. Questa sera allora parliamo di una nuova tipologia costruttiva ibrida, legno e acciaio, messa a punto con l'aiuto dell'Università degli Studi di Trento da parte di Premetal, che è un'azienda specializzata in strutture prefabbricate, e da Evo 3, che è una startup, ma ormai una PMI nata e cresciuta all'interno del progetto Manifattura della provincia di Trento, di cui abbiamo in linea l'amministratore delegato Carlotta Cocco. Buonasera Cocco. Buonasera. Allora, dicevamo, la novità di questa vostra operazione, di questo vostro nuovo paradigma costruttivo, non è nei materiali ma nel modo in cui li avete messi assieme, invece, se ci spiega. Sì, allora, noi abbiamo fatto questa ricerca che va ad analizzare il sistema costruttivo che prevede la combinazione degli materiali tradizionali acciaio-legno. È una struttura portante in acciaio che si combina con dei solai in pannellature in legno e delle pannellature di legno prefabbricate per le pareti. E le... Che possono includere per esempio gli infissi piuttosto che dei servizi, no? Di sì, solito. Assolutamente, sono pannellature appunto prefabbricate in tutto e per tutto che poi vanno a completare la nostra costruzione. Che è fatta di acciaio e legno. La parte strutturale viene data dall'acciaio in combinazione con il legno. Ecco, detta così sembra quasi una roba banale, no? Uno fa una struttura d'acciaio, che tra l'altro come si fa nei grattacieli, e poi ci avvita su, diciamo così, dei pannelli di legno. In realtà la cosa è un po' più complicata. Su cosa avete dovuto lavorare per consentire un accoppiamento felice, diciamo, di due materiali molto diversi tra loro? Allora, all'università sono state fatte delle prove di laboratorio per analizzare i comportamenti chimico-fisici dei due materiali combinati assieme. Sono state fatte le prove di laboratorio studiando le reazioni tra i diversi materiali. Sono state analizzate le connessioni per vedere appunto la reazione all'umidità, al fuoco, all'acustica, in modo tale che fossero ottimizzate le risposte di entrambi i materiali. Ecco, facciamo un esempio: il metallo si dilata molto più del legno sottoposto a calore, il legno si deforma molto più del metallo se c'è l'umidità, quindi in realtà non è facile tenerli assieme, è molto complicato, ed è questo un po' il lavoro che avete fatto. Senta, ma quali sono però i vantaggi rispetto a un edificio tutto in legno o tutto tradizionale? Allora, la ricerca appunto partiva da questo, da ottimizzare le caratteristiche migliori dei due materiali, ottimizzare le virtù di questi due materiali, utilizzarle dando maggiore flessibilità al costruito, quindi potendo modificarlo nel tempo, in quanto appunto l'acciaio ci dà la possibilità di avere degli spazi aperti e il legno invece ci consente delle tamponature flessibili proprio attraverso dei pannelli. Ecco, cioè, spieghiamola bene questa cosa. Voi spostate facilmente pareti, create spazi divisori, addirittura potete togliere i pavimenti e fare uno spazio, non so, alto due piani. Assolutamente, ma quello che si prefiggeva sostanzialmente è che la modifica delle abitazioni nel tempo può essere infinita, e quindi da moduli di abitazione da una persona può essere a moduli di abitazione per cinque persone. Quindi insomma, senza dover intervenire sugli impianti, senza dover demolire. Sì, assolutamente. Inoltre, dando la qualità delle costruzioni in legno, si possono costruire anche edifici molto grandi come a molti piani, come è possibile per le costruzioni in acciaio. Certo. E senta, qui un altro aspetto che mi sembra importante sottolineare è il cambio di approccio che c'è sul mondo dell'edilizia, che è un mondo in larga parte ancora molto artigianale, che infatti non riesce oggi a rispondere a una serie di sfide, probabilmente, soprattutto se pensiamo alle ristrutturazioni, devo dire la verità. Qui siamo sul nuovo, ma cosa ne pensa? Infatti, qui un altro vantaggio è proprio una certezza sui tempi e i costi di costruzione, che è dato dalla spinta industrializzazione di questo sistema costruttivo. L'industrializzazione è proprio la qualità del futuro, la qualità del costruire domani, perché dobbiamo spingere per un sistema costruttivo che sia veloce, che sia certo, che non ci dia, che non abbia imprevisti, ma che ci dia certezze sul sulla qualità finale. Questo è possibile attraverso un'industrializzazione spinta, come fa questo sistema costruttivo individuato. Va bene, grazie, grazie allora Carlotta Cocco e avanti così. Grazie a voi, grazie per l'intervista e buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.